La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in diretta qui dagli studi di Milano la radio. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia in questo venerdì 24 di luglio. Santa Cristina vuole che si chiama Cristina, sono le 16:31, primi 10 secondi. E oggi, come avrete capito anche da altre trasmissioni, oggi è l'ultimo giorno del palinsesto pre-estivo di Radio 24, quindi questa per la versione di Oscar è l'ultima puntata prima della pausa agostana. Poi ci risentiamo dal lunedì 31 di agosto, perché c'è il palinsesto estivo che parte la settimana prossima. E lo stesso vale per i Conti della Belva. Domani naturalmente dalle 10 alle 12, ve lo dico subito, con i compari dei Conti della Belva vi chiedono fin d'ora di intervenire in diretta, perché lo dedicheremo tutto alla svolta fiscale annunciata da Renzi una settimana fa, per sentire come la pensate. E ovviamente inviteremo politici pro e contro, economisti pro e contro, però insomma se domani volete alle 10 alle 12 chiamateci all'800 24 00 24 per dirci se vi riconoscete in quella metà degli italiani che non ci crede, non si fida secondo i sondaggi di Renzi, oppure se invece pensate che si possa fare qualcosa, che cosa, se ne pensate, se votate PD, del fatto che si comincia dall'abbattimento dell'IMU TASI prima casa, quando invece fino a pochi mesi fa la sinistra difendeva quella tassa, e così via. Comunque domani ci saremo ancora, e poi anche per i Conti della Belva ci risentiamo a settembre. Oggi, poiché è l'ultima trasmissione prima della pausa di qualche settimana, in questa giornata ho pensato a un ospite che ogni tot mesi chiamo per fare un punto con lui della situazione italiana. Oggi è un giorno che ce ne offre tante, poi di spunti, perché nella realtà c'è Roma, solidarietà ai romani come sempre per la loro situazione nei trasporti pubblici. C'è stata una conferenza stampa di Marino stamattina che, come avevo preannunciato oggi, l'ATA, che è costretto a prendere atto del fatto che deve ricapitalizzare per l'ennesima volta, perché la ricapitalizzazione per 1 miliardo di 3 anni fa quasi è stata bruciata, perché anche il bilancio 2014 si chiude con un segno meno. Vedremo, il CDA non è ancora finito, se saranno 60 o 70 milioni di euro. 1,6 miliardi di perdite in 10 anni, 1,6 miliardi di debiti. Bisogna ricapitalizzare per l'ennesima volta. Marino riesce a evitare di dover chiedere al governo, perché lui 220-240 milioni che sono necessari come minimo di ricapitalizzazione non ce l'ha. Si è inginocchiato, per così dire, di fronte a Zingaretti, il presidente della Regione Lazio, che salda una tranche di 300 milioni al comune di spese dovute dalla Regione ai comuni, con quella verrà la ricapitalizzazione. Però ha annunciato Marino, chiedendo scusa ai romani dopo 4 settimane di sciopero a singhiozzo per i macchinisti dell'ATAC che rifiutano il badge per i controlli nella prestazione del loro orario di lavoro, ha chiesto scusa ai romani e ha annunciato una sedicente svolta. La svolta sarebbe cercare un privato che metta i soldi nell'ATAC mentre il comune continua a gestire. Ecco, questa è la maniera per non risolvere nulla, perché quel privato, se lo trovano, quando quella è l'azienda pubblica più scassata d'Italia, certificata in quanto tale da Mediobanca, non da me, capite bene che se chiedi a un privato di metterci i soldi, gli devi dare il potere di ristrutturarla e gestirla. Invece Marino, come se fosse una grande svolta, dice: no, ma noi troveremo un privato che ci mette i soldi se gestiamo noi. Beh, vediamo se lo trovano. Io penso che se lo trovano è un matto o è uno che fa beneficenza. Primo esempio della giornata. Secondo esempio della giornata: anche stamattina, forse qualcuno l'ha visto sui siti dei giornali, assemblea sindacale a sorpresa agli scavi di Pompei. È avvenuto molte volte in questi mesi. Anche stamattina più di 2000 turisti a sorpresa in fila al sole, lasciati al sole, perché naturalmente gli scavi non aprivano per questa assemblea che non era stata preventivata e annunciata. Però a questo punto il sovrintendente si è rotto le scatole, e di fronte a questo è andato lui, ha aperto i cancelli insieme ai funzionari archeologi e ha detto: adesso fate la vostra assemblea, li faccio entrare io i turisti. Allora, la mia opinione è che la pubblica amministrazione ha bisogno di dirigenti così, cioè 92 minuti di applausi per quello che mi riguarda al sovrintendente di Pompei, che si chiama Osanna di cognome, e per una volta il cognome mi sembra nomina sunt consequentia rerum, come dicevano i latini. Osanna a Osanna, ecco, perché ogni tanto ci vuole qualcuno che nella pubblica amministrazione dica: ma è troppo. Tenete conto che a Roma ieri c'è stato bisogno di aspettare la prima pagina del New York Times perché il prefetto si decidesse a precettare, dopo 4 settimane di sciopero che sono in patente violazione delle norme vigenti sui diritti dei trasporti, dei passeggeri, dei trasportati che pagano il biglietto e l'abbonamento. Abbiamo dovuto aspettare che che il New York Times mettesse in prima pagina lo schifo di Roma. E all'epoca, a quel punto, ieri, voglio dire, il prefetto finalmente ha detto no, per lo sciopero di lunedì si precetta. Bisognava farlo fin dall'inizio. Allora, viva il sovrintendente di Pompei, che ricorda a tutti che le norme ci sono e vanno rispettate, perché come l'assemblea di Pompei era fuori dalle norme, lo sciopero dell'ATAC è fuori dalle norme. È solo che c'è chi poi la legge la applica e chi no. Ecco, allora, su questo sfondo italiano di giornata con queste due storie, l'ospite, a cui chiedere un po' come la pensa con la sua saggezza, perché l'ospite è Giampaolo Pansa, Giampaolo Pansa che ogni tanto chiamiamo, i suoi ultimi libri 2015 per la Rizzoli, tanto per ricordare, cioè La nascita del fascismo, per ricordare l'ultimo, oppure La destra siamo noi, una controstoria italiana da Scelba a Salvini. Buon pomeriggio e grazie a Giampaolo Pansa che ci fa questo grande piacere di regalarci 20 minuti del suo tempo. Grazie a voi, siete voi che fate un regalo a me. No, figurati Giampaolo. Allora, io inizio subito dalla domanda che poi porremo ai nostri ascoltatori domani. Ma tu, a Renzi, che ha annunciato a freddo, neanche Padova lo sapeva sabato scorso, 3 anni di grandi tagli di pressione fiscale, 1 punto di PIL l'anno, 45 miliardi, ci credi? No, non ci credo. Ah, sì. Non ci credo assolutamente, perché l'ho scritto un'infinità di volte nei miei bestiari che pubblico, grazie a Dio, al Padre Eterno che mi consente di farlo, e naturalmente al direttore Maurizio Belpietro e all'editore eccetera eccetera, e, no, fin dal giorno in cui Renzi ha fatto questo assassinio pubblico di Enrico Letta e ha preso il suo posto, io non ho mai creduto che Renzi mantenesse le promesse che fa. L'ho chiamato il chiacchierone, l'ho chiamato il bugiardone, l'ho chiamato in mille modi diversi. Non crederei a Renzi neppure se mi dicesse che lui domani mattina, quando si alza, prende un caffè. Penso che sarebbe un bluff anche quello. Si è mai fatto vivo lui con te? Ma figuriamoci. Io non conto niente rispetto a Renzi. Renzi è un signore che, se dovesse chiamare tutti i suoi critici, passerebbe la giornata al telefono e non so con quali risultati per i suoi nervi. Assolutamente no, ma no, di questo non mi importa nulla. No, questo lo so, questo lo so dopo scrivere. Tanto. Esatto, però tu pensi che si sia, con le amministrative, si sia un po' rotto quell'atmosfera di consenso che per un anno gli ha fatto dire siamo al 40% con il risultato dell'Europeo? Sì, vabbè, ma io penso di sì. Penso di sì, e lo misuro da un fatto. Tu hai appena nominato l'amministrazione di Roma, del comune di Roma, capitale, non voglio dire mafia capitale, di Roma capitale. Poi c'è un'altra grande amministrazione, in questo caso di una regione, che è la Sicilia, con questo Crocetta, che ieri abbiamo visto in una trasmissione televisiva per 20-25 minuti e mi ha terrorizzato, perché ho pensato che un signore come quello doveva governare la Sicilia, lo faceva da un palazzo storico come il Palazzo dei Normanni. Allora, se Renzi non fosse un chiacchierone, cosa avrebbe fatto? Avrebbe già costretto sia il sindaco di Roma, scusate, sono un fumatore, posso farlo perché sono molto vecchio, e sia il governatore della Sicilia a dimettersi e a malportare sia la città di Roma che la regione siciliana nuove elezioni. Perché non lo fa? Perché teme di perdere. Perché teme di perdere, e teme di perdere è che vincano in entrambi i casi e quelli del 5 Stelle. Ma guardi, io non ho mai votato per i 5 Stelle, a parte il fatto che ormai da un paio di elezioni, o da 3, non mi ricordo più quale, non vado più a votare, l'ho anche scritto, quindi non è che rivelo il segreto. Poi non, penso che non interessi a nessuno il segreto del Pansa che si astiene nel senso che non si presenta i seggi. Ma lui evidentemente sa come stanno le cose, avrà dei sondaggi, ha uno staff impressionante di signori e signore che secondo me forse dovrebbero starsene a casa e fare degli altri mestieri, ma comunque da Palazzo Chigi qualcosa si riesce a captare degli umori del paese. Renzi, che da questo punto di vista non è uno sciocco, più che un rottamatore è un ascoltatore di se stesso, ed è uno che sta molto attento a quello che gli succede intorno, proprio perché non è mai stato eletto, sta a Palazzo Chigi in virtù di un colpo di palazzo, e poi non è che le elezioni europee autorizzino un signore qualsiasi a diventare il capo del governo italiano e si è reso conto che perderebbe. È chiaro, non vuole andare al voto, ma altrimenti in un qualunque paese normale Roma sarebbe già stata chiamata alle urne, la stessa cosa i siciliani della Sicilia intera. Invece questo è un paese ormai che non esiste più, non è più un'Italia, è un'italiaccia. Recito il titolo del mio prossimo libro, che uscirà in settembre, sempre per la Rizzoli, un'italiaccia senza pace. Ma quando dici italiaccia dai un giudizio però che così sembrerebbe anche sugli italiani o non solo sulla politica? Ma certamente anche sugli italiani, perché non è che i politici fanno le loro cazzate in privato, le fanno in pubblico. Però sento, vivendo soprattutto in un piccolo paese, si colgono molto meglio gli umori di quanto li coglievo quando stavo a Roma o a Milano, e si vede che la gente si sta stancando. Sta stancando davanti a una serie di problemi, non ultimo, non dimentichiamolo, non so se vorrai parlarne, comunque tu sei tu il dominus di questa trasmissione. L'immigrazione. Adesso anche nei piccoli paesi toscani, grazie a Dio non ancora nel nostro, ma in altri piccoli centri cominciano ad apparire questi ragazzoni neri che girano col walkie talkie, che girano con dei telefonini molto raffinati, mentre il mio, da quello dal quale sto parlando, è un banale telefonino. Io non posso fare altro che parlare o ascoltare le persone, ma peraltro i telefoni servono a questo. E hanno, sono vestiti con cura, stanno in alberghi, che qualcuno paga, cioè paga Oscar Giannino, Giampaolo Panza e qualche altro milione di italiani che pagano le tasse. Quindi questo è un paese finito, è un paese chiuso. Aspetta però, sull'immigrazione restiamo ancora un po', perché quando, come ovvio, diciamo, gli antemurali della polemica rispetto a Renzi, al governo e Alfano, quando si tratta di distribuire le quote dei rifugiati, sono Salvini, la Lega e così via. Però in alcune regioni italiane, come hai notato tu dal tuo osservatorio, nel posto dove vivi, ma basta vedere un po' i sindaci del PD nel Veneto, poi alla fine... anche loro, evidentemente perché interpretano quello che tu ci stai descrivendo dal basso nei loro comuni, in realtà dicono le stesse cose dei sindaci leghisti, no? Ma certo, è fatale che sia così. Però il vero problema di Renzi, e qui siamo davanti a una sua ennesima piaga, è che lui non ha mai aperto gli occhi davanti ai barconi di disperati che arrivavano in Sicilia o in Calabria o in Puglia. Non se n'è mai occupato, non ha mai aperto bocca, non ha mai deciso niente, aveva un'infinità di alternative da seguire, da quella più spietata di respingere i barconi o di bombardarli, a quelle di intervenire sui governi dei paesi dai quali partono questa gente. Non ha fatto niente di tutto questo. E adesso si trova, come avrebbe detto mia nonna, con il fuoco sotto il culo, questa è la verità. E non sa più che cosa fare. La cosa drammatica è che tra le tante impotenze dell'Italia del 2015 ce n'è una che sovrasta tutte, che è quella del nostro premier. È un premier, come dicevano gli inglesi di Berlusconi, unfit, cioè inadatto a quel mestiere. Cerchi un altro, ancora abbastanza giovane, vanta sempre questa giovinezza, 40 anni, senza rendersi conto che chi ha 20 può pensare, ma sei un vecchio perché hai il doppio degli anni che ho io. Certo, se io li guardo dall'alto dei miei 7-9, prossimi a essere 8-0, mi sembra un bamboccio. Però, è un bamboccio che non fa altro che blaterare a vuoto, bluffa. Hai un giudizio acquisito oramai pressoché definitivo, mi sembra. Sì, non credo che lo cambierò. Non credo che la cambierò. Nemmeno se il caso o il Padre Eterno o qualche altra entità superterrena ci costringa a prendere conto che Renzi è in grado di trasformare l'acqua in petrolio. Allora, fino a questo momento, o meglio, fino alle ultime amministrative, però, il punto di forza che spiegava anche l'atteggiamento genuflesso di tanti grandi giornali, i sondaggi, insomma, eccetera, eccetera, la RAI, la lasciamo perdere, era fondato sul presupposto che, sì, Renzi, molti difetti, adesso si vedono meglio, all'epoca parlarne significava essere dei gufi, però, in definitiva, la sua punto di forza è che alle prossime elezioni politiche le alternative le diverse alternative, quella di destra da una parte, Grillo dall'altra, sono impresentabili. A me sembra che in realtà questo argomento abbia sempre imbarcato acqua. Io adesso, torniamo tra 60 secondi perché abbiamo l'informazione stradale, ma te lo chiedo da prima. Questo argomento fondato, sì, Renzi avrà i difetti, ma in realtà le alternative sono impresentabili, che spiega anche l'atteggiamento degli industriali, delle banche, tutti favorevoli a Renzi. Secondo te è un argomento che aveva presa e non ce l'ha più o non ha mai avuto presa? Ci dai la risposta tra 60 secondi. Strade adesso. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta alle 16:47 primi e 43 secondi e con noi insomma, un grande maestro del giornalismo italiano e sia della divulgazione che della storiografia civile del nostro paese, Gianpaolo Pansa, e ci eravamo lasciati al suo giudizio molto duro, molto pesante, l'avete sentito, è definitivo su Renzi e io gli avevo chiesto, ma però le alternative sono impresentabili, si è detto fino a poco tempo fa. Questo argomento ha ancora una presa o non l'ha mai avuto? Secondo te, Gianpaolo? No, ma non l'ha mai avuta, perché scusa, prima avevamo Berlusconi che è durato fino a quando poi è arrivato Mario Monti, dopo Mario Monti abbiamo avuto Enrico Letta, dopo Enrico Letta abbiamo avuto il presunto rottamatore, ma come avrebbe detto la mia magica nonna Caterina, morto un papa se ne fa un altro. Io sento questo argomento e lo sento dire nel paese in cui abitiamo, Adele Grisendi e io, c'è una grande stazione termale, quindi qui arrivano parlamentari, cose che poi mi cercano, qualche volta andiamo a cena insieme, è l'argomento preferito dei parlamentari. Renzi non ci piace, ma dobbiamo sostenerlo perché dopo di lui c'è il vuoto, ma questo è un errore tragico, non è vero che è così, ma vogliamo che in questo paese, a parte il fatto che comunque il giorno che dovesse cadere Renzi fatalmente andremo subito a votare, poi bisogna vedere chi vince, se dovesse vincere per caso i 5 Stelle con Grillo va bene, se il popolo vuole quello proviamo anche Grillo. Non mi pare che sia un argomento che funzioni, perché se funzionasse avrebbe dovuto funzionare anche per Monti, anche per Letta. Perché non ha funzionato per loro? Perché dovrebbe funzionare per questo chiacchierone bluffatore e pieno di promesse a vuoto che Firenze ha regalato all'Italia? Era una città che io ho amato molto, sono andato apposta a Firenze quando ero uno studente di liceo, perché volevo vedere Via del Corno, dove era ambientato un romanzo di Vasco Pratolini, Cronache di poveri amanti. Eh sì. E sono rimasto soggiogato dalla bellezza di questa città. Adesso se anche mi invitassero in carrozza ad andare fin lì non ci andrei, perché ogni angolo mi ricorderebbe questo signore che sta a Palazzo Chigi e che non merita di starci. Allora, per molti però Renzi ha avuto un merito, perché lui aggredisce direttamente tanti luoghi comuni di una tradizione ininterrotta del partito storico della sinistra italiana, seppur una mutazione del suo nome, per così dire, dalla illicenziabilità, dal mito del sindacato, eccetera eccetera, e lui lo fa dal primo momento in maniera deliberata, facendo vedere che lui preferisce una fetta di elettorato più, come si suol dire, moderato rispetto ad alcuni che ripetono i luoghi triti e ritriti della sinistra. È stata secondo te una commedia? Non è così un modo per attirarsi simpatie del centro e dell'establishment? Ma guarda, io penso che lui sia talmente debole e incapace di fare il mestiere che la sorte gli ha regalato o gli ha imposto di fare, che rende incredibile e inverosimile tutto. Facciamo un esempio, adesso vi posso dire una cosa, io domani che è sabato scriverò il mio bestiario per Libero, qui lo farò su Denis Verdini. Se guardiamo la faccia di Verdini e la faccia di un imperatore romano della decadenza e pensiamo che quello deve essere una delle stampelle che Renzi sta costruendo per se stesso, mi sento non male, perché ormai l'unica cosa che contano per me sono i mali fisici e grazie a Dio finora il Padre Eterno me li ha risparmiati. Mi sento però sgomento, perché se si arriva a immaginare che un signore come Denis Verdini, del quale non voglio dire nulla perché poi non vorrei creare problemi giudiziari a Oscar Giannino, alla radio del Sole 24, a Gianpaolo Pansa, però sappiamo tutti che tipo è, ma se un premier arriva a organizzare un trasloco di questo tipo, bisognerà poi vedere quanti saranno i senatori o i deputati che lo seguiranno, ma saranno circa una ventina. Ma in ogni modo è il fatto in sé. Soltanto questa cosa squalifica una presidenza del Consiglio, ripeto. Anche le cose che tu hai elencato, ma non si sapeva che il sindacato era un vecchio arnese che andava cambiato, non si sapeva che gli eredi del PC erano degli sbandati e anche quelli dovevano cambiare testa, ammesso che sia possibile, non si sapeva che anche certi imprenditori sciocchi dovevano essere messi in riga, ma lo sapevamo tutti. Il vero dramma di un giornalista della mia età, io ho cominciato a scrivere sui giornali appena quando avevo 25 anni, non su un foglio qualsiasi, che sulla stampa di Torino, allora diretta da un mostro che era Giulio De Benedetti, sì. Il mitico GDB. Da allora scrivo e se mi guardo alle spalle vengo preso dallo sgomento, perché sono tutte storie di cui mi sono già occupato, sentenze che ho già dato o che ho sentito dare, speranze a vuoto che si fingono, diciamo tutti, di rinnovare cambiando una faccia. Il vero problema è che l'Italia ormai si è disfatta, non è più una nazione in grado di essere, come dire, la medicina di se stessa o la Croce Rossina di se stessa, è una nazione allo sbando. Quindi ci meravigliamo che il New York Times metta sulla prima pagina una foto della sporcizia che soffoca Roma, ma è ancora poco. Abbiamo visto, a proposito di Firenze, patria del nostro rottamatore, un giornale, se non sbaglio il Corriere della Sera, ha pubblicato la foto di una signora, tra l'altro ben copputo, anzi ben con delle chiappe notevoli, che faceva i suoi bisogni su una piazza storica fiorentina. Ma questa è l'Italia di oggi. Però è anche l'Italia che ha, insomma, diciamo, 200.000 imprese che esportano, la seconda manifattura d'Europa. Cioè, poi certo, ha la Grecia in casa sua, se andiamo a vedere purtroppo la condizione in cui versano le regioni meridionali con perdite di 15 punti di PIL dal 2007, ci abbiamo la Grecia in casa, però ci abbiamo anche la Baviera in casa, per così dire. Beh, abbiamo un pezzo di Baviera, non so dove stia, forse nel Veneto, forse nella zona estrema dell'est italiano. Ma il vero problema è che siamo un paese lungo, non soltanto dal punto di vista della sua configurazione geografica, ma lungo perché è molto diverso, perché se c'è un pezzo di Baviera che sta in provincia di Treviso, in provincia di Belluno, mi devi dire che pezzo di che cosa abbiamo in Basilicata, abbiamo nelle zone povere della Campania o in Calabria, abbiamo questa regione formidabile come la Sicilia affidata a un signore come Crocetta, ma insomma non basterebbe la faccia. Però posso dirti una cosa, sentendoti con questo spirito, direi che sei pronto per tornare a votare e votare 5 Stelle. No, io non voglio più andare a votare, perché io non sono uno scettico, non ho più fiducia di nessuno. Non impedisco ad Adele di andare a votare, non le chiedo neppure per chi voti. Io non ci vado. No, non ci credo che non ne parlate con Adele. Ma no, ma ne parliamo. Non so poi perché lei voglia votare, può decidere da sola. Come mia madre, mia madre era al centro di una famiglia larga, tutta socialista, e lei votava Democrazia Cristiana. Perché? Perché aveva una piccola imprenditrice, nel senso che aveva un suo negozio che prosperava, guadagnava 3 volte o 4 volte mio padre, che era un operaio specializzato del telegrafo, che aveva in cura con la sua squadra la linea B Roma-Berlino. Tu pensa un po' cosa significava questo. Mia madre dice: ma io non voglio votare per le sinistre, devo votare per il Fronte Democratico Popolare, che mi dicono sempre che vogliono portare la Russia in casa. Ma mia madre era uguale, con le stesse parole che stai riferendo della tua. Vabbè. Vedi, tale qua. A parte, c'è una differenza. Sì, però io sono cresciuto in un vecchio grande quartiere di elettorato fino all'acciaio fedele al Partito Comunista, perché Mirafiori Nord, quella in cui sono cresciuto io, alla fine anni 60, era questa roba. Città era questa? Torino, Mirafiori Nord, fine anni 60. Cioè, io ho lavorato a Torino. Quindi, per parecchi anni, 2 volte alla stampa. Il mio quartiere, conosco bene la città, il PC andava... Ma però la famosa Torino era anche quella che poi affiggeva su tutti i portoni, non si affitta in meridionale. Non si affitta in meridionale, ma ohimè, me lo ricordo ancora, quindi questo è il punto. Va bene, io intanto ti ringrazio per questi giudizi durissimi che ci hai regalato su Renzi. Molti ascoltatori infatti hanno un po' protestato, però Giampaolo Panza, signore, giù cappello. Questa è la mia idea, è quello che ho imparato in 30 anni di giornalismo. Io ti ringrazio Giampaolo, ci risentiamo. Voi continuate con Radio 24, appuntamento domani dalle 10 alle 12 sulle tasse di Renzi con i conti della Belva qui su Radio 24.